Il cananeo re di Arad, che risiede nel Negeb, sentì che Israele era arrivato per il cammino di Atarim e combatté contro Israele, facendone dei prigionieri. Israele fece un voto al Signore e disse: «Se darai in mano mia questo popolo, voterò allo sterminio le loro città». Il Signore ascoltò la voce di Israele e gli mise nelle mani i cananei. Israele votò allo sterminio loro e le loro città, e quel luogo fu chiamato Corma. Tolsero le tende dal monte Cor, dirigendosi verso il Mar Rosso per aggirare la terra di Edom. E l'animo del popolo si rattristò nel cammino. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè. «Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per morire nel deserto? Qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di un cibo così inconsistente». Il Signore allora inviò al popolo i serpenti che bruciano. Morsero il popolo e molta gente di Israele morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro te. Intercedi presso il Signore e allontana da noi il serpente». Mosè intercedette per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso e lo guarderà, vivrà». Mosè fece un serpente di bronzo e lo mise su un'asta. Se un serpente mordeva un uomo e costui guardava il serpente di bronzo, viveva. I figli di Israele tolsero le tende e si accamparono in Obot. Partirono da Obot e si accamparono a Ie-Abarim, nel deserto che è di fronte a Moab, dal lato dove sorge il sole. Partirono di là e si accamparono presso il torrente Zered. Di là partirono e posero il campo oltre l'Arnon, che scorre nel deserto e proviene dal confine degli Amorrei, perché l'Arnon è il confine di Moab, tra Moab e gli Amorrei. Per questo è detto nel libro delle guerre del Signore: «Vaeb in Sufa e le sponde dell'Arnon, il pendio delle sponde che piega verso l'abitato di Ar e si appoggia al confine di Moab». Di là andarono a Beer, è quel pozzo di cui il Signore aveva detto a Mosè: «Raduna il popolo e darò loro dell'acqua». Allora Israele compose questa canzone: «Sgorga, o pozzo, cantatelo, pozzo che i principi hanno scavato, che i nobili del popolo hanno forato con lo scettro, con il loro bastone». E dal deserto andarono a Mattana, da Mattana a Nacaliel, da Nacaliel a Bamot, e da Bamot alla valle che è nei campi di Moab, la cima del Pisga domina di fronte al deserto. Israele inviò messaggeri a Sicon, re Amorreo, a dire: «Lasciami passare nella tua terra. Non piegheremo nel campo e nella vigna, non berremo acqua di pozzo. Andremo per la strada reale finché passeremo il tuo confine». Ma Sicon non fece passare Israele per il suo confine. Sicon riunì il suo popolo e uscì incontro a Israele nel deserto. Arrivò a Jaas e combatté contro Israele. Israele lo colpì a fil di spada e conquistò la sua terra dall'Arnon fino allo Yabbok, fino ai confini degli Ammoniti, perché forte era il confine degli Ammoniti. Israele prese tutte quelle città e dimorò in tutte le città amorree, in Chesbon e in tutte le sue dipendenze, perché Chesbon è una città di Sicon, re Amorreo. Egli aveva combattuto contro il precedente re di Moab e gli aveva preso di mano tutta la sua terra fino all'Arnon. Per questo i poeti dicono: «Venite a Chesbon, si edifichi e stabilisca la città di Sicon, perché fuoco è uscito da Chesbon, fiamma dalla città di Sicon, ha divorato Ar di Moab, i padroni delle alture dell'Arnon. Guai a te, Moab, sei perduto, popolo di Camos, ha dato i suoi figli alla fuga, le sue figlie alla schiavitù, a Sicon, re Amorreo, li abbiamo colpiti con frecce, è perduto da Chesbon fino a Dibon, abbiamo devastato fino a Nofach, che è presso Madaba. Israele dimorò nella terra dell'Amorreo. Poi Mosè mandò a esplorare Jeazer, presero le sue dipendenze e scacciarono gli Amorrei che vi si trovavano. Poi cambiarono direzione e salirono per la strada di Basan. Uscì Og, re di Basan, con tutto il suo popolo contro di loro per far guerra in Edrei. Il Signore disse a Mosè: «Non aver paura di lui, perché te l'ho dato in mano, lui e tutto il suo popolo con la sua terra. Farai a lui come hai fatto a Sicon, re Amorreo, che sta in Chesbon». E colpirono lui, i suoi figli e tutto il suo popolo, finché restò un superstite, e presero possesso della sua terra.